attento, dove vado non so, e sto viaggiando senza una meta che non ho. Cerco di andare lontano da tutti i miei ricordi che mi fanno male, e sto guardando la mappa che mi porterà in un altro posto e non so, e magari incontrerò un'altra gente che non so, magari incontrerò qualcuno che come me ha preso una valigia e non ci ha messo niente e prende un treno che porterà dove non si sa. Io me ne vado, non so dove arriverò, io sto partendo senza una meta precisa e come porto solo